Lo Stivale del Rock. Questa settimana, spazio e tempo. Ciao a tutti gli ascoltatori di Spazio Radio e del programma Lo Stivale del Rock. Noi siamo gli Spazio e Tempo, una band nata nel 2023 a Mestre, in provincia di Venezia, dall'incontro di quattro musicisti con diverse esperienze musicali. Il nostro sound unisce melodie pop all'energia del rock, con testi in italiano che parlano di emozioni, vita quotidiana e storie in cui molte persone possono riconoscersi. Il nostro repertorio alterna brani inediti e alcune cover della canzone italiana, e negli ultimi anni abbiamo avuto l'occasione di esibirci in diversi eventi e festival, tra cui il Vapore a Forte Marghera, lo Spring Fest, il Parco Albanese e altre manifestazioni del nostro territorio. Abbiamo inoltre partecipato in teatro all'evento Una canzone per la vita, insieme al mitico Federico Poggi Pollini, il chitarrista ex Litfiba e attualmente chitarrista di Ligabue. Presto saremo ospiti anche in un programma televisivo su Televenezia. La nostra band è composta da Pietro Carbonara, il sottoscritto, alla voce e chitarra, Gianmaria Leoncin alla chitarra elettrica, Massimo Penzo alla batteria e Fernando Prianca al basso. Per questo programma vi proponiamo alcuni dei nostri brani e speriamo che la nostra musica vi faccia compagnia. Un saluto dagli Spazio e Tempo. Angolo di paradiso, spazio e tempo. We'll be right back. Mario non mi fermerà. Spazio e tempo. Invisibile, spazio e tempo. Say sei e lo sarai. Invisibile, invisibile, lo sei e lo sarai. Abbiamo trasmesso lo Stivale del Rock. Questa settimana, spazio e tempo. Sì.